Dunque, il nostro tavolo ha affrontato tre aree tematiche che erano state proposte sia dalla riunione preparatoria che ha fatto appunto il tavolo ecologia, che dalla condivisione poi successiva con Antonia per il tavolo urbanistica. Quindi le tre fasce di temi / tempi dati per affrontarli erano: l'uno, cibo e agricoltura, a partire dal webinar che è stato realizzato su questo tema; il secondo è quello della riorganizzazione urbana, a partire dal secondo webinar La riconquista delle brevi distanze; e poi abbiamo dedicato l'ultima fascia della discussione alla definizione, alla proposta, alle indicazioni che adesso vi riferisco per quanto riguarda le possibili priorità da svolgersi all'interno della rete per proseguire il suo percorso. Bene, così ti rendi utile anche tu in qualche modo. Allora, per quanto riguarda il primo tema, è stato affrontato tramite il confronto di due documenti sulla sovranità alimentare, quello rilasciato da Campi Aperti, Arvaia e Emporio di Comunità Camilla, e il secondo, quello rilasciato dal coordinamento delle comunità contadine campane toscane. Ma chissà perché mi viene sempre campane, è colpa di Gennaro Ferillo. Allora, toscane. All'interno di questo confronto sono emerse alcune tematiche comuni, alcuni obiettivi comuni che non vi sto a riportare. Il documento di Campi Aperti è disponibile sul sito di Campi Aperti, quello del coordinamento toscano è addirittura su Change, quindi potete poi rivederli. È stata messa in evidenza, in particolare per quanto riguarda il documento di Campi Aperti, oltre alle analisi generali, la definizione di cos'è la sovranità alimentare oggi, i problemi posti dalla grande distribuzione organizzata, dalle multinazionali del cibo, la terza parte è un elenco di tutti i punti su cui Campi Aperti propone di intervenire, mercati contadini piuttosto che altre questioni collegate, e su ogni punto c'è una proposta concreta anche per le pubbliche amministrazioni su quello che possono fare e che non dovrebbero fare, che ci è sembrata una cosa interessante all'interno della discussione. Il secondo tema appunto è stato affrontato a partire dalle relazioni che già come tavolo abbiamo proposto con il territorio. E qui cito un importante contributo, ci sono stati molti contributi, quindi non posso riportarli tutti, di Vizioli, che forse conoscete in molti, che ha detto che l'ecologia è il campo relazionale di tutti gli eventi della vita. Ci è sembrato un buon modo per dare appunto a questo ecosistema di cui ci occupiamo, l'ecologia, un significato profondo, che poi sostanzialmente è quello che ha proposto anche Papa Francesco nella sua enciclica quando parla di economia, di ecologia integrale. Le proposte, così la faccio breve. Allora, le proposte che sono emerse come indicazioni più generali per Rete Beni Comuni sono quella che è stata richiamata anche dalla sessione precedente, il rapporto tra le tematiche che noi affrontiamo e la riproduzione e la cura delle relazioni. Questo come tema trasversale, quindi il cibo che serve come alimento non solo dei rapporti di produzione ma anche per quelli di riproduzione. Poi, altro tema, la formazione, ma anche questo è stato richiamato da più parti, la riproducibilità delle esperienze, quindi verificare come possono essere diffuse al di là della stretta cerchia degli addetti ai lavori, quindi dei partecipanti alle diverse reti che fanno riferimento alla Rete Beni Comune. l'accesso alla terra, quindi verificare cosa significa per quanto riguarda soprattutto i giovani, l'occupazione, il precariato delle fasce più giovanili, e poi la necessità di tener conto dei diversi contesti in cui le proposte di rete beni comuni e dei singoli tavoli vengono avanzate, che è un po' poi il tema che è emerso anche nel gruppo che ha, diciamo, riferito nella sessione precedente i risultati della propria discussione, quindi tener conto di differenze culturali, economiche che caratterizzano ogni rete per far sì che possa essere facilitata la partecipazione. Quindi è stato ripreso anche in quel contesto. Diciamo che in generale è stato riaffermato e chiudo quello che abbiamo proposto anche all'interno del gruppo ecologia, prima che fosse anche territorio, cioè l'autoformazione, la necessità di fermarsi per riflettere, studiare prima in rapporto con le pratiche, affinché questo elemento possa facilitare poi sia la capacità di intervento che la capacità di risolvere le contraddizioni, i conflitti, come si è detto prima, questione estremamente importante che era presente anche nei lavori del nostro gruppo. Sì, io voglio dire solo semplicemente un'altra cosa, perché sei stato esaustivo. E, no, che ci siamo resi conto che a queste assemblee stanno partecipando soggetti che magari non hanno seguito dall'inizio, comunque per tanto tempo, il filone del discorso. Quindi secondo me ci deve essere anche una sensibilità e un'attenzione nel garantire del materiale innanzitutto da diffondere per garantire che chi partecipa sia comunque a conoscenza un po' delle tematiche, ma avere anche quindi una sensibilità di accoglienza e quindi di garantire anche agli altri di poter dare dei contributi, anche se i ragionamenti sono abbastanza avanzati. Semplicemente questo volevo. Bene, grazie al tavolo ecologia e territorio barra urbanistica. Adesso passo la parola a Annalisa e riferisce sul tavolo giuridico. Allora io ho provato a prendere degli appunti qui sul muro, perché è stato un tavolone, diciamo, veramente intenso, c'era tantissimo materiale nel report, quindi ho provato a estrarre le cose principali. Allora, innanzitutto, diciamo, la valutazione che abbiamo fatto è che ci sono 3 proposte di legge a livello nazionale sul tavolo, sono uscite 2 leggi regionali del Lazio e della Toscana, regolamenti a raffica su tutti i comuni. Ecco, noi non siamo mai stati a nessuno di questi tavoli, questa era un po' la considerazione. Quindi abbiamo la consapevolezza che dobbiamo agire su più piani e su più livelli amministrativi, su diversi tipi di strumento, e quindi livello nazionale, regionale, comunale, e gli strumenti non sono solo i regolamenti, questo insomma ormai ci è chiaro un po', insomma, dalla lettura delle esperienze riportate. E, diciamo, rispetto a cominciare ad avere una visibilità, ci sono 2 proposte concrete. Una è di promuovere una conferenza stampa al Senato o alla Camera, e un'altra è di proporre ad ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'inserimento della nozione di beni comuni negli statuti comunali. Un aggancio per arrivare ad ANCI ce l'hanno dato i Brendan Rosis e l'ex postmoderno, che stanno organizzando un evento a novembre a Bari all'interno del Festival dell'Architettura, e il sindaco di Bari è presidente nazionale di ANCI, e quindi in quell'occasione si potrebbe, come dire, agganciare, insomma, in un evento pubblico il sindaco di Bari su questo tema. Questo festival è dal 6 al 12 novembre a Bari, quindi cominciamo a fare un save the date, chi ci vuole andare. E continuare a discutere su alcuni temi, questo anche insomma è emerso, i temi sono sempre gli stessi, diciamo rigirati in vario modo in diversi interventi, soprattutto due, di Giuseppe Micciarelli e di Paolo Cacciari. Più o meno si incrociano, si sovrappongono questi temi, sono sempre svendita e acquisto di beni comuni, la questione del uso non esclusivo, il ruolo dell'assemblea come organo di autogoverno, il riconoscimento dell'assemblea, la necessità di definire chi fa questo riconoscimento, in quali forme, il ruolo degli osservatori, diciamo nel presidiare questa tematica, il ruolo anche dei soggetti civici collettivi come i forum, come le reti civiche, come quella di Ferrara, rispetto sia al presidiare la tematica, a entrare negli osservatori, a fare un lavoro di crescita culturale, di autoformazione, di costruzione di intelligenza collettiva, perché abbiamo capito che gli esperti non bastano, i pool di giuristi non bastano se non ci si confronta con le pratiche continuamente, con le situazioni locali, eccetera. In questo senso, cioè, molti esprimevano preoccupazione sul fatto che si ricostituisse una sorta di commissione Rodotà che fatta solo di professori universitari, espertoni e giuristi e che ancora una volta insomma, taglia fuori le pratiche. E altri nodi problematici rimangono quelli della responsabilità, dell'agibilità, della sicurezza negli spazi, la questione dell'economia, la questione dell'economia ritorna perennemente all'interno del nostro dibattito e forse dobbiamo ammettere che abbiamo una difficoltà proprio a sviscerare questo tema, anche dal tavolo economia poi sentiremo un po' se si è riusciti un po' ad affondare su queste questioni e insomma anche legate alla sostenibilità economica dei beni comuni, questioni legate a manutenzioni, oneri di gestione, autocostruzione, processi di autonormazione con quali soggettività, come si governa la non concorrenza all'interno, cioè nell'uso dei beni, insomma ci sono temi sui quali continueremo a ragionare. È emerso più volte il tema del recovery fund, ci sono posizioni diverse, alcuni dicono non entriamo nella spartizione della torta, non è questo insomma che bisogna fare, altri dicono che invece è una battaglia da fare. Alleanze, c'è stato un ulteriore appello di Graziani su stare insieme nelle commissioni, andare insieme uniti nelle commissioni dove si discute dei beni comuni e appelli anche da una compagna di Bologna su, vista l'analisi della situazione bolognese, stare molto sul piano politico, non solo tecnico-giuridico, insomma più o meno mi sembra questa è la sintesi del tavolo, se qualcuno vuole aggiungere. Aggiungo una cosa io, velocissima. No, allora, durante questa discussione è emersa anche un'altra cosa, che diciamo qualifica il lavoro del tavolo di lavoro e della rete tutta da questo punto di vista. Cioè, allora, gli aspetti giuridici hanno una caratteristica che è la forte territorialità, perché il problema giuridico è diverso a seconda dell'ente di riferimento con cui ti confronti, della visione politica dell'ente. Quindi è difficile approfondire e sviscerare un problema a livello di rete. La rete può fare, appunto, come ha detto Nicola più di una volta nell'incontro di ieri, può fornire degli strumenti che possono essere utilizzati nelle varie comunità per affrontare i problemi nel modo più corretto o più razionale. Quindi questo penso sia una cosa importante, perché ognuno di noi sa di poter, tra virgolette, contare su un supporto che può essere usato nel modo più idoneo a seconda della situazione territoriale dove ci si trova. Questo è quello che volevo dire. Passerei a questo punto la parola a Anna Sofia per quanto riguarda il tavolo economia. Ciao, grazie per la partecipazione nel tavolo economico anche. E prima di tutto non abbiamo risposte a nessuna delle cose poste per Annalisa. Non da me. vado al tavolo, mi dispiace. Però noi in realtà abbiamo, siamo partiti dai punti che ci sono stati sollevati a Milano, che sono stati 6 punti importanti perché ci hanno permesso di cominciare una discussione molto ampia, che durante il lockdown almeno uno di quei punti si sono concretati di una maniera abbastanza veloce e fatta con un'esperienza molto, molto di comunità. E su questi punti, soltanto per le persone che sono stati la prima volta nel tavolo, ma anche in questa assemblea, perché noi abbiamo avuto la partecipazione di tante persone che erano lì per la prima volta e anche in ascolto, ringraziamo anche quella disposizione. E a Milano noi ci siamo lasciati con 6 punti importanti da sviluppare, tra cui era unire e coordinare le reti e le filiere economiche, visto che ci sono tante realtà produttive nella rete, era importante mettere in condivisione non soltanto i prodotti ma anche le conoscenze. E tra cui ci sono dei temi che si sono sviluppati all'interno di questi macrotemi che sono a disposizione nei report economici, soltanto li faccio velocemente per non... E il secondo punto era costruire un'economia dei beni comuni, che è comunque il compito che ci è stato dato in questa assemblea: come possiamo fare operativa questa economia dei beni comuni. Terzo punto, casa mutua, che su questo abbiamo una proposta, azioni grosse di acquisti di proprietà, fonti di finanziamento e dossier di redditività civica. Questi sono stati i 6 macropunti di Milano, a cui in questa assemblea ci siamo dati il lavoro di parlare sulla relazione di scambio economico tra i diversi nodi della rete e tra reti con reti, e il secondo sull'impostazione della ricerca sulla redditività civica. E nel nostro lavoro col tavolo ci siamo organizzati in questa forma di quadrante: la prima di tutto, cosa produciamo, materiale e immateriale, per far diventare evidente cosa si può scambiare. E sono emerse parecchie idee, tra cui, al di là di creare degli empori, delle reti di distribuzione, ma anche una parte interessante sarebbe cosa si può condividere di maniera immateriale. Stato proposto, tra tutte le varie proposte, e anche condividere la creazione artistica che si fa in diversi spazi che possono aiutare ad eventi di autosostegno per fare una sorta di itineranza artistica tra quello che si produce dentro degli spazi. L'altro quadrante sarebbe la pratica di cura. Che tipo di pratiche di cure abbiamo noi all'interno dei nostri spazi? Perché la consapevolezza di queste pratiche condivise possono aiutarci a prendere degli spunti per adattarle all'interno di altri spazi. Tra cui c'è stato anche l'esempio qua di Mondeggi del cerchio delle donne. E abbiamo messo anche come definire la redditività civica. Redditività civica è stato, almeno il nostro tavolo, in questo momento, visto che era un soggetto che non era ancora proprio dal linguaggio, dalle persone che sono stati presenti, e perciò abbiamo dovuto comunque ricondividere questo ragionamento che ci stiamo facendo sin dall'inizio. L'idea sarebbe al centro di avere un'autonarrazione di tutte le attività che si fanno all'interno dello spazio. Noi siamo ancora in un lavoro di riflessione sul tema della redditività civica, che è anche legato alla relazione con le amministrazioni, con gli altri spazi, e anche a una maniera di rivendicare le attività che si fanno all'interno degli spazi, ma anche quale impatto hanno queste attività fuori gli spazi. E finalmente ci siamo detti di cosa vogliamo imparare. Già da Milano avevamo una lista di workshop di cui volevamo mettere a disposizione queste conoscenze, e adesso sono emerse anche altre idee di cosa si possono formare. E la proposta, che questo già andiamo andando verso la fine, sarebbe fare proposte di workshop in linea per il momento, perché adesso ci lasciamo e dobbiamo continuare il lavoro online, e organizzandolo non necessariamente da un solo una sola realtà di riferimento, ma condividendo le capacità di ognuna delle realtà e di organizzare questi momenti di scambi e di autoformazione per arrivare alle prossime assemblee già con queste conoscenze scambiate. Allora, avevamo due punti da proporre in plenaria. Il primo era giustamente il bisogno di fare una cassa mutua dalla rete, e noi volevamo, visto che come gruppo economico non possiamo decidere autonomamente, volevamo presentarlo in plenaria e dire se potevamo fare un gruppo ad hoc che potesse lavorare sulla creazione di questa casa per eventuali incontri, per cominciare un percorso di sia eventualmente di mutuo aiuto, però per il momento almeno è di una facilità di avere dei fondi per almeno supportare dei costi logistici delle prossime assemblee. E il secondo punto era creare il tavolo permanente, che già comunque è stato informato dal gruppo FOS che c'è bisogno di avere questo tavolo permanente per continuare questa discussione. Tutte le persone che sono interessate, anche se non hanno partecipato questa volta al tavolo economico, ci sono gli indirizzi email e possiamo cominciare a lavorare insieme, a continuare a lavorare insieme. Grazie. Non so se qualcuno del tavolo vuole aggiungere qualcosa. Nessuno. Va bene, allora, i tre relatori sono stati bravissimi perché sono stati molto veloci. Abbiamo un po' di tempo per degli interventi. Chiedo venia. Sono tutti fuori a fare il punto, però. Per cui io non so chi dare la parola. Allora, intanto direi di meditare un po' sulla proposta di Anna Sofia, sulla creazione del gruppo. Del gruppo permanente per la creazione / gestione della cassa mutua. C'è già un intervento, quindi io sviscererei questi interventi e poi appena arriva il gruppo della depatriarcalizzazione si dà la parola a loro. Jason. Allora sono arrivati, quindi la precedenza. Ah, ecco, infatti anche a me sembrava che non dovessero restituire. Come non detto, tornate a fare il punto, vai allora. No, ma dai, ma non si dice. Da scherzo, così. scherzo, dai. Allora, Jason, prego. Non c'è niente di più patriarcale che entrare. Subito, non so, ragione. Grazie. Allora, io volevo fare una proposta collegata alla prima plenaria che abbiamo fatto ieri, cioè il collegamento con altre reti, altri processi che sono in corso, perché mi sembra che tutto il terreno fertile che si sta formando qui possa essere molto utile per altri percorsi e viceversa esserci una contaminazione positiva in questo senso. Per cui da una parte penso che le questioni dell'economia che sono state poste e che adesso sono più chiare, penso, sono state un po' più sviscerate, più ordinate, perché non proporre a reti come la Rete Italiana di Economia Solidale di confrontarsi su questi temi e di fare un incontro online o, quando sarà possibile, fisico, con i membri soci delle due reti, che si incrociano anche, per vedere come trovare, diciamo, delle risposte. Secondo, il percorso che Marco Bersani ieri ha spiegato, questo della società della cura, è anche quello un ricollegamento tra tante realtà diverse a livello italiano, che può proporre un'idea di società radicalmente diversa, dove questo elemento della cura è al centro e delle relazioni è al centro, per cui anche inserirsi e confrontarsi con questo percorso secondo me è molto importante. E terzo, il Forum Mondiale delle Economie Trasformative sul tema dei beni comuni e di come trasformano l'economia, di come sono un elemento di trasformazione dell'economia e della società, beh, è uno dei temi centrali sul tema della proprietà, del potere, delle relazioni, eccetera, eccetera. Il prossimo appuntamento è tra ottobre e novembre, online, quindi è possibile proporre delle attività online, proporre delle convergenze su magari dei temi specifici, e io posso dare una mano, ma insomma c'è un gruppo che ci lavora sia a livello italiano sia internazionale, per cui se c'è l'idea di continuare alcune di queste discussioni anche fuori dall'Italia, quello è il luogo dove farlo. forum.trasformadora.org per informazioni. Grazie. Chi ha chiesto la parola? Riccardo, sì, mentre arriva dico una cosa che mi rilascio a quello che dice Jason. Durante il lockdown abbiamo imparato a usare il mezzo informatico per vedersi online. Vediamo di usarlo, continuiamo a usarlo a nostro, diciamo, per nostra utilità, cioè per continuare a vederci periodicamente per affrontare e sviluppare per i temi che abbiamo messo sul campo in questi due giorni, senza aspettare di metterli nel cassetto e riaffrontarli dopo sei mesi al prossimo appuntamento. I singoli tavoli probabilmente potrebbero avere uno sviluppo più veloce, più efficace, e arrivare magari al prossimo appuntamento con argomenti più nuovi. Prego. Grazie. Allora, è la prima volta che partecipo a un'assemblea di questa rete e è stato un piacere farlo. Per mia storia personale, ormai più fra i 15 e 20 anni fa mi sono occupato di usi civici. E nel titolo di questa rete esiste un riferimento agli usi civici e appunto, ripeto, è la prima volta che partecipo a un'assemblea di questa rete e vorrei capire in che modo sono coinvolte le realtà degli usi civici italiani, che sono numerose, presenti sui territori e hanno delle dinamiche complicate in molti casi. A seconda delle regioni, hanno delle problematiche giuridiche di farle riemergere, quindi tutti dei percorsi giuridici legati a recuperare dalle evidenze storiche l'affermazione di queste proprietà collettive, perché si sta parlando appunto di un ordinamento di proprietà differente da quella pubblica e privata che stanno nella nostra Costituzione. Quindi è un elemento di rilevanza estremamente importante, su cui in Italia c'è una stratificazione di studi molto importante, in cui abbiamo dei giuristi, penso a Danilo Zolo che ne ha studiato per anni, che hanno fatto analisi e lavoro su questo. Vorrei capire che dignità diamo a questa rete che nel suo titolo ha e usi civici, perché se vogliamo mantenerla lì vuol dire che deve essere fatto uno sforzo importante nel coinvolgimento delle amministrazioni separate dei beni di uso civico. Grazie, spunto interessantissimo. Adesso la parola a Gennaro, che ha chiesto di intervenire. Raccomando a tutti la brevità, perché in modo da poter parlare tutti e finire relativamente in poco ritardo. Allora, brevissimo. Operatività e continuità dell'azione che abbiamo messo in campo. Nel tavolo ecologia e territorio noi confermiamo e convalidiamo, diciamo, le strumentazioni, alcuni metodi che ci stiamo dando. In modo particolare quello che abbiamo detto, la formazione, l'autoformazione, ma l'autoformazione connessa all'interazione, alla contaminazione, interazione con altre soggettività, un'interazione costruente, costitutiva, positiva di rapporti e relazioni che, come dire, ci cambiano nel momento in cui ci confrontiamo. E quindi è una metodologia di autoformazione e tessitura forte di relazione con altre reti. Lo confermiamo, lo convalidiamo, e tra i webinar che ci siamo dati nell'elenco delle proposte ce n'è una prossima che è già stata un po' cantierizzata, insomma, è quella sulla mobilità sostenibile e il turismo responsabile. Dico turismo responsabile, non dico deturistificazione della città, insomma, qualcuno mi può capire. Quindi propositivi, insomma, rispetto a degli altri ambiti di ecologia integrale che noi vogliamo inserire in questi contenitori, in questi spazi che stanno dimostrando, insomma, di essere veramente una novità, insomma, eccetera. Poi c'è un'idea di cui abbiamo parlato e che nei prossimi incontri del tavolo ecologia territoriale cercheremo di sviluppare, cioè che alcune delle proposte che sono emerse con più forza, con più determinazione rispetto magari al tema del cibo e agricoltura, con le piante. E poi abbiamo visto invece che c'è un'altra forma che, a me, devo dire che vivo nel mondo del reale, della carta, e rimane un po' ostico. Però ricordiamoci che le radici sono l'inizio della vita sulla Terra, no? Il W è necessario. È necessario quando ci impediscono di comunicare tra noi. Mente. Con la carne e il sangue. Vi ringrazio. Grazie Tito. L'ovazione addirittura. Dopo? Dopo. Ah, vabbè. Allora, per ora non ho fatto. No, solo per chi sempre ci sente da lontano, che per noi è molto importante provare a includerlo nell'assemblea, visto... ci si deve scrivere il proprio nome e numero di telefono sul pad degli interventi che è segnato nell'evento Facebook, e noi vi chiameremo da un numero che non conoscete, quindi insomma rispondete al vostro intervento. Vi invitiamo a spegnere lo streaming della radio, che sennò fa riverbero nel telefono. E altri dettagli tecnici? No, grazie mille, scusatemi. Cosa? Prego, scusate. Non credo anche, dovevamo decidere anche se, c'è? Ci sono due. Prego, vieni. Chi c'è? Ah, prego, Daniela. Per aggiungere una cosa brevissima sul tavolo ecologia e territorio, di aggiungere sul, diciamo, polo tematico cura riproduzione anche il concetto di autodeterminazione, che consente un ponte per dama nell'asse dell'autodeterminazione. Siccome mi sembrava un argomento significativo e non vedo la compagna che ne aveva parlato, ma il suo era solo questo elemento. Grazie. Ciao a tutti, Silvia e Dario, ma è questo per dire il bello di trovarsi qui in carne e sangue, qui tutti assieme, perché ci siamo incontrati anche perché almeno di Milano, di cui abbiamo accennato, che dovremo portare in comune in settimana per manifestare la nostra volontà di essere, diciamo, finalmente che ci venga restituito questo spazio. Sì, c'è un po' da capire se bisogna farsi riconoscere o se invece ce lo devono restituire in qualche modo a compenso delle varie forme di violenza sistemica patriarcale che ci tocca vivere nella nostra quotidianità, anche come spazi come questa rete ci permetta di condividere quelle competenze che oggi stamattina nel workshop bellissimo di Angela, di Nadia e di Cecilia, abbiamo capito che è molto importante per far vivere il bene comune. Valeria, bellissimo, no, davvero, sono sincero, abbiamo bisogno di momenti come questo, corpori davvero, sennò poi rischiamo di cadere continuamente nelle formalità dell'assemblea che sono necessarie, ma poi non ci permettono di toccare E ultimissima cosa, spot come remake, il prossimo weekend a Milano faremo una 3 giorni proprio sul lettivo di riconoscimento anche reciproco come comunità di remake. Qui vorremmo fare qualcosa che parta un po' da quello che è stato fatto anche stamattina nel laboratorio di depatriarcalizzazione, che poi è anche un laboratorio in cui abbiamo cercato di capire come ricostruire piano piano il nostro modo di affrontarla in questa 3 giorni, il prossimo weekend, che è il 3 e il 4 ottobre, con una sera anche il venerdì sera che dovrebbe essere anche un po' più di festa, ma anche quella di sabato sera, invitata e invitato. E anzi, se in qualche modo avete a cuore il tema dell'autogestione, conoscete magari persone che stanno a Milano e ne fanno ricerca e hanno voglia di portare la loro esperienza, condividete questi contatti con noi. Adesso forse Angela, forse dov'è Angela? Forse verrà, non si sa. Stiamo cercando di tirarla in mezzo. Quindi chi è interessato all'iniziativa, e trovate l'evento. Grazie a tutte, tutti, tutto, grazie. Ciao Roberto, ciao a tutte e tutti. Sì, ti sentiamo, vai pure. Va bene, perfetto. Senti, no, io intervengo da remoto, non ho potuto partecipare direttamente, ma vi ho seguito per quello che potevo. C'è stato qualche buco sull'economia e poi, insomma, ho seguito tutta la giornata di oggi. E che è appunto il bene comune di cui io faccio parte, a cui io cerco di contribuire. E insomma, devo dire che quello che è emerso e che è stato riportato in assemblea ci rappresenta completamente. E ecco, volevo fare una considerazione sulla centralità che ha avuto in questa assemblea l'attività sulla depatriarcalizzazione. E secondo me è un punto di svolta importante per la rete. Già ovviamente c'erano stati dei precedenti, c'è tutto un lavoro che ha preceduto questo momento, ma insomma credo che avere dedicato questo. E da questo punto di vista, ecco, vorrei riprendere, mi pare nel workshop di stamattina ci sono state anche alcune osservazioni molto attive, potrebbe essere così, insomma, un po' restrittivo, ecco, perché la depatriarcalizzazione, secondo qualcuno, è solo un pezzo del problema. E in realtà poi, insomma, c'è stata una interlocuzione di Valeria che ha detto, ha espresso il suo pensiero dicendo che in realtà questo è un tema trasversale e che quindi, insomma, non, una sottovalutazione di questa centralità, appunto, del tema non aiuta a fare dei passi avanti, alcuni strumenti che possono diventare davvero utilissimi per cambiare e soprattutto all'interno di quei momenti che sono di grandissimo valore, come è stato sottolineato. E quindi ecco, credo che questo sia un aspetto rilevante, rilevantissimo, che dà anche un valore aggiunto a questa assemblea, se ce ne fosse stato bisogno. E perché appunto poi il femminismo e il transfemminismo, e qui cerco di fare anche un passo avanti, credo che siano una chiave di lettura fondamentale, sono stati ricordati nei vari interventi, e un po' il punto di origine. E quindi, insomma, credo che questo punto di vista, questo approccio, se attraverso, è molto importante. E il fatto che lo si sia affrontato e lo si affronterà, è veramente positivo. Il ragionamento sul metodo, sugli strumenti, no? Sulle modalità relazionali che possono essere aiutate anche da una vera e propria strumentazione che, insomma, è stata costruita al riguardo. E sottolineo tutto il lavoro che è stato fatto dal tavolo, che è stato un lavoro immane, per quello che ho potuto, ma frequentemente. Credo che questo tema debba essere affrontato anche da un teorico, ecco, passatemi questa espressione, perché è importante avere degli strumenti di analisi che ci permettano di capire perché in questo momento da tantissimi soggetti, da alcuni in modo ovviamente strumentale, ma da altri in modo assolutamente autentico, è considerato un tema centrale all'interno del dibattito politico. E quindi, questa è una cosa che appunto volevo, un webinar sulla cura e riproduzione sociale, che è appunto tema al centro della, su questo stesso tema vediamo che ci sono delle chiavi di lettura molto diverse e che non sempre sono in sintonia con la nostra sensibilità sociale, comunitaria e legata appunto all'idea dei beni comuni. E ce ne saranno altri due che promuoveranno il rapporto tra il femminismo e i beni comuni, uno, e sfruttare gli spazi a partire dalle esperienze che già esistono. E come affrontare questo percorso che abbiamo visto sarà irto e di ostacoli e faticoso. E poi ecco un'ultimissima cosa, nel tavolo economia sono uscite diverse cose interessanti, ma insomma sembra che meritino attenzione, poi valuterete voi. E degli spazi sociali ad uso civico e collettivo, eccetera, pratiche delle attività che si svolgono appunto in questi spazi. E l'esemplare del sistema economico, questo è stato detto in tante occasioni, ma insomma lo riprendo perché mi sembra anche questo un punto cruciale. Carla, perdonami, ti prego di chiudere. È troppo lungo. Ok, va bene, allora mi fermo qui. L'altro punto che volevo affrontare era quello della conflittualità e vertenzialità e come appunto una questione politica, prettamente politica, altro riprenderà questo tema. Ok? Grazie dell'ascolto, scusate la lunghezza. Ci sarebbe appunto da esprimersi. Quindi rifacendomi a quello che è stato detto stamani nel gruppo mio, quindi no, scusate. c'è qualcuno che è contrario a questa si palesi e manifesti le sue contrarietà. In caso contrario, si crea questo gruppo. E poi nei prossimi appuntamenti vedremo i futuri sviluppi. Giuseppe vuole intervenire. Ti dico prima che tu cominci, ti dico che hai 4 minuti di tempo al massimo. Era un presupposto che quello che ha detto Annalisa, che noi siamo una rete che su tutto il territorio nazionale lavora e crea i tavoli che hanno poi prodotto purtroppo anche molto male proposte di legge, regolamenti, che noi spesso arriviamo sempre su questi tavoli, su queste discussioni sui regolamenti, ma sempre lo facciamo praticamente in quasi tutte le città, se non tutte le città che oggi partecipano all'incontro. Allora noi dobbiamo denotarci come rete nazionale. Su questo aggiungo, è accaduto questo, da una parte è assolutamente positivo il discorso che si è in qualche modo, diciamo, finalmente alcuni pezzi, l'unità del movimento dei beni comuni, perché lo dicono due esponenti, Ugo Mattei e Paolo Maddalena, e non c'è una unità se Paolo Maddalena e Ugo Mattei sono d'accordo. Noi, ripeto, fuori veniamo citati, che bello il Valle, che bello l'asilo Filangieri, e poi, come dire, tutti i contenuti che noi abbiamo posto. Allora io ripartirei da questa situazione, mettendo insieme il tema che siamo assenti da quei tavoli e che ora passa i soggetti esclusi. Che io trovo assurdo che il discorso dei comitati dell'acqua, che con tutte le loro difficoltà ci sono ancora, la proposta che veniva fatta di lavorare con la rete italiana delle economie solidali, anche perché poi un'altra volta i percorsi si incrociano. Io, ma come me altri, Paolo e altri, abbiamo dato una mano per la scrittura dello statuto dell'associazione consortile, diciamo, che riunisce ai nodi di alcune IES a livello nazionale. Quindi io farei un lavoro su questo. Secondo passaggio, brevemente, proverei a lavorare su quei 7-8 punti, perché dobbiamo stare nel concreto su alcune questioni, altrimenti appunto si fanno le fuffe e sulle fuffe dicono che siamo tutti uniti e poi tutte le questioni che poniamo vengono, come dire, cancellate. E la mia proposta è di lavorare su questi punti, ovviamente aperti e integrabili, mettendo il prezioso materiale che abbiamo sul drive di documenti, regolamenti, ad essere riconosciuta, proposte, e magari se abbiamo degli avanzamenti, diciamo, mettere anche un proprio questo materiale di lavoro. Ultimo punto e chiudo, velocissimamente, sentendovi da lontano, e ripeto, me ne dispiace tantissimo, a me sembra, ma magari mi sbaglio, quindi, come dire, prendetelo col beneficio del dubbio, che noi abbiamo avuto comunque un grande assente in questo dibattito, il che è un po' paradossale, che è la questione di come... A me sembra paradossale il problema, diciamo, che noi non riusciamo anche tra di noi ad affrontare in un certo modo questa questione senza che diventi l'ennesimo... Io ho la sensazione che non lo affrontiamo perché teniamo che riproponiamo dentro i nostri spazi lo stesso malessere che viviamo all'esterno quando vediamo il dibattito pubblico. Che questa cosa divida anche al nostro interno tra, faccio la battuta, proprio polarizzata, ansiosi e strafottenti, paranoici e non lo so, scegliete un altro termine. Noi non siamo né l'uno né l'altro, io voglio credere che attraversando questi spazi non ci sta nessuna di queste polarizzazioni, tanto. Perché quando noi discutiamo del fatto che vogliamo provare a aprirci all'esterno, se capiamo solo noi, e soprattutto non affrontiamo, diciamo, il tema che piacciono, allora io da questo punto di vista, proprio per farlo il più serenamente possibile, provando anche a ripartire da quello che tanti altri l'hanno fatto in altro modo, dare un supporto vivo a livello sociale, a livello proprio umano abbiamo fatto, allora io proporrei semplicemente di fare un momento di incontro, un tavolo online, scritta d'urgenza, 50-100 di noi che si vedono, ma essenzialmente, come dire, non riescono a parlare dal punto di vista proprio teorico, di dialogo con le persone che mi sono più vicine in questo percorso, e cioè tutti voi. Grazie. Grazie Giuseppe. Allora Giuseppe, qui in assemblea qualcuno non ha chiaro qual è la tua proposta di riflessione sulla futura possibile pandemia. Puoi ripetere per favore? Ok, allora sono due proposte. La prima, di uscire con un comunicato, questa forse non si era capito, nazionale, che risponde alla lettera congiunta di Paolo Maddaleni e Ugo Mattei, che sanciscono finalmente l'unità dei beni comuni, dicendo che noi non siamo da nessuna parte su questi tavoli e che continuano a non essere, come dico, veniva una conferenza stampa alla Camera e al Senato, andrebbe benissimo qualunque cosa, ma noi dobbiamo uscire chiaramente. Il dire non pubblico che gira per i nostri canali, in cui proviamo a ragionare prima che esploda l'esigenza, ma leggere la fase sul Covid, perché la fase sul Covid è evidente che, come dire, viene interpretata dalla loro popolazione, almeno di quella che vota, e noi su questo siamo muti. Allora io vorrei, visto che non ho la soluzione, quelli nostri che sono informati, come fanno a rispettare certe regole che manco, come dire, un'industria riesce a rispettare? Che vogliamo fare da questo punto di vista? Li teniamo aperti, li teniamo chiusi? Li teniamo aperti rischiando che succede qualche cosa e poi diventiamo l'accusa del billionaire dei centri sociali? Oppure invece no, abbiamo un'altra idea, abbiamo un altro modo di prenderci cura, abbiamo fatto questi cartelloni, condividiamoli, come per esempio abbiamo fatto sulla questione di Mondeggio, dove molti dei cartelloni che vedete, alcuni sono stati fatti da un bellissimo lavoro che hanno fatto alcune compagne. Allora, ripeto, discutere di queste cose, io ne sento profondamente il bisogno, però come dite giustamente... Allora, Giuseppe, ti chiedo per cortesia di restare ancora al telefono perché c'è un intervento su questo argomento, quindi passo a... Grazie. Dunque, quando è stata convocata questa riunione, io ho proposto prima a Emanuele, no, di parlare proprio di questo, con un'iniziativa da prendere. Quindi mi fa perfettamente piacere che uno si sia accorto che noi non possiamo parlare in astratto di qualsiasi cosa se non parliamo in concretamente dei problemi. Allora, mi fa piacere che Beppe se ne sia accorto. Io di noi, a qualsiasi livello, devo dire che io non vorrei che si parlasse solo online, perché la questione è quando sia necessaria una sorta di, come dire, una volta ci diceva ossimoro sostanzialmente. Tant'è, come si chiama, l'ecologia e l'agricoltura, ho riproposto questa cosa, qualcuno ha preso il volantino, allora io ripeto, noi, alcuni di noi, ci stiamo muovendo per fare una discussione, cepire, no? l'agricoltura in modo tale che sia a cominciare dall'agricoltura ed altre forme di vita nostre, no? Sono chiaramente poco diffuse oggi, per esempio, quelli che sono concentrati in città chiaramente soffrono la pandemia molto di più di quelli che sono diffusi in campagna, ovviamente. Si possono fare molti interventi che si potrebbe svolgere anche a Mondeggi per discutere di queste cose, a partire da tutti, una forma di dialogo. Noi non abbiamo soluzione. La mia idea in realtà è che la vera questione sia il livello delle nostre difese immunitarie. Qualsiasi soluzione nei confronti del virus che esiste da molto prima che si speciasse l'uomo cosiddetto tra di noi, come ci sono i terremoti, e quindi abbiamo noi, possiamo discutere di questa cosa? La mia idea è che un'agricoltura sana sicuramente rende noi molto più pronti a tratti. A me è sempre sembrato evidente questa cosa, talmente evidente che in realtà discuterne. Spero che però l'intervento di Giuseppe, che io, che è il mio in realtà, che ripeto con qualche dettaglio, riesca a permettere a noi di discutere di questa cosa. Presente che la discussione di questi due giorni deriva da una organizzazione, Vedersi Online, è stato un ordine del giorno, è stato condiviso da tutta la rete. È ovvio che il tema pandemia, Covid, lockdown è un ricordo anche che come tavolo ecologia, quando abbiamo durante il lockdown e online abbiamo anche, diciamo, condiviso con tutta la rete un documento molto generico dove c'era una serie di riflessioni che poi hanno portato a un focus unicamente sul cibo e agricoltura. Però da Giuseppe e da Tito di continuare la riflessione su come il portamento degli spazi nella loro organizzazione interna, per cui questo è un argomento ancora più cogente per quanto riguarda la gestione dei nostri spazi, quindi ben venga la partecipazione sia adeguata. Io più di questo non saprei che dire. Vieni. Ci sarebbe tante cose da raccontare, anche altre esperienze che appunto di cui faccio parte e con cui abbiamo faticato appunto sia sui problemi del fatto di fare l'assemblea sia del fatto dei problemi con Critical Mass. Un ciclo fisso per siamo incontrati per tantissimo tempo la notte, luna piena, a Piazza del Popolo per andare in bicicletta. Ecco, questa cosa io l'ho applicata ora a quest'altro gruppo con cui abbiamo lavorato tutto il semestre. Il fatto di dire che il giovedì ci vedessimo è stato molto utile per poter produrre di più in qualche modo. Quindi, per esempio, Mondeggi è in un ciclo di natura, potrebbe avere che bisogna fare il più possibile di presenza, però questo potrebbe essere un'idea per... Il moderatore è scappato. Approfitto per lanciare, chiedevano di intervenire Carlo Alberto, Graziani e Gianni. Se intanto che lo chiamiamo vuole intervenire qualcuno, altrimenti aspettiamo. Ok, allora una cosa brevissima, Annalisa, poi chiamiamo Carlo Alberto e Gianni. Allora, solo una puntualizzazione, volevo dire che siamo persone che viviamo in città diverse dal nord a sud Italia, quindi lavorare online è essenziale per tenere in piedi la rete, questa la dobbiamo vedere come una ricchezza, non come un ostacolo. Poi quando abbiamo deciso di incontrarci abbiamo lasciato la possibilità a tutti di partecipare in presenza, vada anche un po' apprezzato perché è stato molto molto faticoso. Per quanto riguarda il fatto di incontrarsi in un giorno fisso, va bene quando parli di alcune cose, noi abbiamo certe volte bisogno che ci siano quelle persone e non altre, di quel gruppo con quella competenza, che hanno preso contatto con quei gruppi che ci devono riferire su quella cosa. Quindi anche lì facciamo un enorme sforzo tutte le volte di fare il doodle per trovare il giorno giusto per tutti, l'orario giusto per tutti. Quindi veramente sappiate che c'è un grandissimo aiuto. Perché altrimenti tutto questo non sarebbe potuto succedere. Bene, grazie Annalisa. Ci sono la due interventi online, poi visto che l'assemblea si sta lentamente appassendo, direi che possiamo chiudere per evitare questo stillicidio di persone. Carlalberto, ci senti? Sì. Sì, buonasera. Puoi parlare, Carlalberto? Ha 3 minuti di tempo. Sì. Bene. Brevissimamente, sul primo punto che ha sollevato Giuseppe Micerelli, io direi subito, lo dico a nome del Comitato Rodotà, incontriamoci, discutiamo su quei 6-7 punti che voi sollevate, vediamo come questi punti possono tradursi in una nuova proposta di legge, vediamolo in concreto, discutiamone, io direi inizialmente online. Finito? Sì, ho finito. Ah, finito. Bene, grazie, molto, molto veloce, grazie mille. Allora c'è anche Gianni di Brenner Roses, che spero dica ci aspetta a Bari. Ci sono. Ciao Gianni, hai la parola, puoi parlare, hai 3 minuti, chi è che parla, chi fa l'intervento, te o il cane? Sono Gianni, ora mi allontano. Sì, ma lo so. Sta venendo con me, mi segue. Allora, volevo dire in 3 minuti innanzitutto un ringraziamento a tutta l'organizzazione. Perché effettivamente non è stato assolutamente semplice conciliare un'assemblea in presenza con un'assemblea online. Forse una ha accennato Carla di Casabettola, cioè sul legame tra tutte le pratiche che portiamo avanti negli spazi che autogestiamo o dove interveniamo con la questione rivendicativa conflittuale nei confronti delle istituzioni o altre controparti. Ossia è importante questo aspetto perché gli spazi istituzionali, ma per ottenere, per fare dei passi in avanti, è bene che si coordinino tra di loro anche avendo un'idea di strumentazione sindacale che possono assumere gli spazi. Qui parlava, credo, Giuseppe, nel momento in cui si dice che c'è l'esigenza in cui noi come rete per i beni comuni dobbiamo essere presenti nei tavoli istituzionali e non solo, affinché tutte quelle siamo riconosciuti per strappare appunto diritti sia all'interno degli spazi. A luglio del 2021 arriveremo alla proroga dell'accordo di collaborazione dello spazio. Questa volta appunto vogliamo presentarci non più come associazione ma come comunità, come assemblea di autogestione, di autogoverno dello spazio, e ovviamente vogliamo essere strettamente legati anche come rete tutta affinché ci sia maggiore capacità di incidere, maggiori rapporti di forza, solo delle sue singole e individuali attività, ma è strettamente connesso a un processo nazionale. Quindi questo diventa fondamentale sia per vincere delle battaglie vertenziali della singola realtà, ma anche per renderci conto che il nostro riconoscimento parte appunto da questi percorsi di singoli spazi, ma nel momento in cui è tutta la rete a presentarsi da questo punto di vista. Quindi poi per l'ultima cosa rispetto alle nostre attività di scambio dell'organizzazione interna agli spazi, per tutto il lavoro che hanno fatto durante il lockdown, ma anche dopo, nei confronti delle famiglie, dei ceti meno ambienti. Ciao, grazie. Ah, ultima cosa. Noi su Bari l'avremmo dovuto organizzare a maggio, però primavera, perché gli spazi che abbiamo qui a Bari sono disponibili solo in momenti all'aperto. Quindi ovviamente abbiamo piena disponibilità, ma non nel periodo autunnale. Ok, Roberto non lo vedo, ci sono altri interventi? Ok, grazie. Sì, ma chiamo. Claudia Ostuni, però è della stessa realtà, ma non so se... Perfetto, grazie. Qualcun altro che vuole intervenire? Approviamo l'idea, la proposta di Nicola di partecipare a queste, di organizzare le conferenze, di inserire i beni comuni nei regolamenti comunali? Approviamo per chi ci segue solo audio. Cioè un plebiscito di mani. Di fare la lettera, anche la proposta di Giuseppe. La proposta di fare un comunicato sulla questione di Ciao Giuseppe. Cioè qualcuno ha... Poi si vorrà il problema di chi lo scrive, ma questo sarà un altro discorso. No, Anna Sofia dissente, non lo posso fare io. Insieme. Proveremo a essere comunque presenti come possiamo agli appuntamenti di Bari, di convergenza che hanno introdotto, diciamo, questi lavori di ieri, ovviamente con l'accorgimento che diceva Nicola, provando a immaginarci con quali pratiche, quali tipo di alleanze vogliamo costruire. Non so se c'è altro. O sul sito, o direttamente in mailing list, fare una specie di calendario da oggi fino a X per capire appunto quanti sono gli appuntamenti che ci possono interessare e eventualmente anche per organizzare. Ma chiaramente usciranno poi i report. Allora, io faccio un pad bianco e ogni persona mette l'appuntamento in ordine cronologico, per cui riceverete una mail con un pad bianco. Se non andate a firmare niente, non abbiamo niente. Grazie Angela. No, volevo intanto ringraziare molto Radio Wombat che... Ci fate imbarazzare un sacco. È molto imbarazzante. Poi magari interverranno loro, però finisco il ringraziamento, che lontano da qui e la cosa non era affatto facile, sono stato tutto il tempo qua dietro a prendere gli interventi, a telefonare, eccetera, eccetera. E ovviamente ringrazio anche i compagni e le compagne che ci hanno dato feedback da lontano sulla resa di questa diretta, perché diciamo io l'ho intesa anche come un modo per esserci vicini nonostante non potevano essere qui. Sì. Viva la diretta. A parte quello. Grazie a Mondeggi, lo ripeto, per la diretta.